Siamo al telefono con Diego, che è il progetto Banadisa, perché è un progetto tuo personalmente, e l'8 ottobre è uscito Suerte, primo album. Intanto, ciao Diego e grazie di essere qui con noi. Ciao, grazie a voi, ciao a tutti. Allora, tu vieni da altri ambiti musicali, diciamo anche progetti precedenti, tra cui l'Istituto Italiano di Cumbia, per esempio. Quando è nata la voglia di creare qualcosa di tuo personale e come? Allora, beh, è un progetto che, Banadisa è un progetto che parte ormai, direi, 4 anni fa. Era nella mia testa già da un po', diciamo che chiusa un'esperienza musicale che mi ha, diciamo, accompagnato sostanzialmente dal 2009-2010 fino al 2016-2015-2016, un'esperienza, diciamo, in una band indie rock con una formazione abbastanza classica, chitarra, basso, batteria. Diciamo, mi trovo di fronte un po' così al foglio bianco e devo un attimo capire se voglio continuare a suonare, cosa voglio continuare a suonare, di cosa voglio scrivere. Quindi, insomma, è un progetto che parte molto lentamente perché è stata proprio una sorta di ripartenza che ho fatto principalmente su me stesso e chiedendomi ancora se c'erano ancora quegli stimoli di ricerca rispetto a tutta la questione musicale. E quindi non è stata immediata la partenza. Devo dire che la svolta, per venire a quello che hai citato, Istituto Italiano di Cumbia, sicuramente, ecco, la cumbia è stata una delle influenze musicali che, quando l'ho scoperta, mi ha acceso più di una lampadina. E chiaramente, diciamo, cominciando a sperimentare un po' con questo genere. Ma non solo, in realtà, diciamo, io dico sempre che la cumbia è una delle componenti del progetto, perché poi in realtà il progetto Banadisa è un progetto che io ho sempre concepito come cantautorale, in un qualche modo. Dentro chiaramente ci sono molte influenze di musica elettronica, molte percussioni e anche influenze sicuramente cumbiere che mi hanno portato poi ad incontrare Studio Italiano di Cumbia, Nahuel Martinez e Toffolo in particolare, e ad essere inserito nel volume 2 della compilation con il brano Fagiano, che è contenuto appunto nell'album in un'altra versione un pochettino diversa. Perfetto, poi parliamo anche delle influenze musicali, ma partiamo invece da... Dal nome di questo progetto. Ora, io sono della bassa modenese, e quando ho letto questo nome mi ha fatto molta tenerezza, perché mi veniva in mente mia nonna che mi diceva Banadissa, queste cose, no? E quindi volevo capire se questo nome era in un qualche modo collegato, no, a un concetto di dialetto, una questione linguistica legata anche alle tue origini, o se aveva un significato completamente diverso. Guarda, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, perché io quando sento la parola Banadisa ricordo mia nonna che me lo urla mentre sto cadendo in bicicletta, quindi sostanzialmente è esattamente questo. È un nome che mi ha ispirato molto, devo dire, perché ha quell'aurea, un modo molto, sì, chiaramente dialettale, e quindi anche molto legato a quello che è il mio territorio, il Polesine, insomma, comunque sì, diciamo il Polesine, ecco, in generale, e però ha questo suono un po' così, un po' sudamericano, suona un po' spagnoleggiante. E quindi la cosa, diciamo che da un certo punto di vista è stata anche un po' un faro, perché ha guidato un po' la mia produzione e ha sempre unito un po' quella che era una dimensione molto locale, anche nei riferimenti, e soprattutto nei riferimenti dei testi. E però un sound che invece era chiaramente ispirato, insomma, a sonorità un po' più globali, un po' più world, cumbia, appunto, abbracciava, diciamo, questa gamma di suoni, diciamo, molto molto ampio, che ho volutamente, insomma, voluto tenere così ampia e aperta, ecco. Per cui sì, Banadisa è un nome a cui sono molto molto affezionato. Chissà se in Spagna o in Sud America Banadisa vuol dire qualcosa, sono molto curiosa. Adesso mi informerò. Chissà se le nonne lo urlano, non so, se le nonne argentine urlano Bandita! bandita, qualcosa del genere. Passiamo a parlare un po' appunto delle influenze musicali che ci sono in quest'album, perché l'album Suerte, appunto, è stato anticipato da 3 singoli: Riva del Rio, Vita e l'ultimo da uscito da poco che si chiama 2121, che sono 3 brani molto diversi tra loro, perché si passa dalla cumbia, da brani più anche ballabili magari, a quello che può sembrare un po' l'indie o anche la canzone d'autore. Ecco, quindi nelle 12 tracce dell'album poi che compongono tutto Suerte, quali generi in generale sperimenti oltre alla cumbia di cui abbiamo già un po' accennato? Guarda, hai detto benissimo, nel senso che ci sono già in questi primi tre singoli, si vede, sono, diciamo, è una gamma abbastanza variegata di influenze. Sicuramente la mia matrice, diciamo, cantautorale, indie rock, di cui vi accennavo prima all'inizio dell'intervista, è una parte di me, è sempre stata parte di me, ed è una parte che non ho voluto censurare, eliminare, ma anzi ho cercato di diffonderla con altre sonorità, tra le quali la cumbia. Un'altra cosa a cui io non mi ero mai approcciato sicuramente era tutta una componente, diciamo, di strumenti più elettronici, quindi la, diciamo, proprio la strumentazione per fare musica elettronica, i controller, il computer, i pad, tutte queste cose erano cose che sostanzialmente non avevo, a cui non mi ero mai approcciato. E poi tutta una gamma invece di percussioni, anche grazie al nostro percussionista Marcello Martucci, un sacco di percussioni tradizionali, shaker, molti tamburi, congas, djembe, una gamma infinita di tamburi. Ci sono molte influenze, sicuramente c'è dell'indie, perché c'è, però c'è anche una componente elettronica, c'è anche una componente folklorica abbastanza forte. Uno dei brani che è contenuto nell'album, Papà son tanto stanco, l'ho fatto in collaborazione con il coro delle Mondine di Porporana, che è un coro che si esibisce, diciamo, principalmente nella provincia di Ferrara, comunque provincia limitrofe, che canta canti tradizionali. Io avevo scritto un canto che era ispirato, diciamo, ad una ricerca etnografica che avevo fatto rispetto ai canti del Polesine, e quindi l'ho proposto ed è uscito questo brano che è sostanzialmente un coro con un tappeto di percussioni sotto, che poi è stato anche candidato e ha preso parte a una manifestazione bellissima che mi invito ad andare a vedere, che si chiama Futuro Arcaico, che c'è stata 3 mesi di luglio, giugno, luglio, ed è partita dalla Puglia e che ha coinvolto vari artisti che si sono diciamo occupati di dare una lettura contemporanea a delle musiche, ma anche in generale alle arti che avessero un'ispirazione nella tradizione, nel folklore locale. Ecco, quindi perfetto, io ti chiederei allora a questo punto, se è un po' che stiamo parlando dell'album, se ci fai scoprire un po' i brani di Suerte, e quindi se c'è un pezzo che vorresti scegliere per farlo ascoltare a noi e ai nostri ascoltatori, ovviamente, anche se ci spieghi il perché. Guarda, io mi ripeterei e sceglierei Riva del Rio, perché secondo me Riva del Rio, nonostante sia stato il primo singolo ad essere uscito, è secondo me uno di quei brani, perché secondo me è uno di quelli che meglio riesce a sintetizzare le varie anime dell'album. C'è una parte molto elettronica, una parte acustica, l'album è cantato soprattutto in italiano, ma anche con parti in spagnolo cantate da Clara Andrés, che mi accompagna sin dall'inizio in studio, anche dal vivo. Quindi è un brano che riesce a restituire una, diciamo, un'immagine abbastanza vicina di quello che è il progetto Banadissa, quindi direi Riva del Rio. Anche ascoltando questo pezzo ci si rende conto che è un album pieno di influenze, sicuramente molto il Sud America. Ma se tu dovessi pensare a altri viaggi, posti del mondo di cui vorresti conoscere magari le musiche e farti contaminare appunto dalla musica e dalla cultura, diciamo, dove andresti, cosa sceglieresti, cosa hai in mente magari anche per il prossimo futuro? Bella domanda, ti dico la verità, chiaramente anche per il rapporto che si è sviluppato con il nostro percussionista, che lui è un esperto di percussioni africane, sarebbe molto molto interessante approfondire tutto questo aspetto, anche perché la cumbia è di derivazione sostanzialmente africana, poi chiaramente mescolata con le popolazioni autoctone, native, diciamo, e successivamente poi con tutte le influenze anche in tempi più recenti, insomma, chiamiamole più pop, ecco, però in senso popolare, ecco, di canto popolare, però tutto parte dall'Africa, e credo che l'Africa sia un continente che, per il tipo di genere che facciamo noi, che sviluppo io, per il tipo di strumenti che utilizzo, sarebbe molto molto interessante poter approfondire. Il Sud America devo dire che rimane in pole position, anche perché non ho ancora avuto modo di andarci, nonostante mi sia fatto una grande cultura, ma a distanza, diciamo, purtroppo, e quindi tutta questa situazione pandemica non ha sicuramente aiutato gli spostamenti, e quindi insomma spero presto di andarci. E un'altra cosa che invece sembra paradossale, però anche questo mi stimola tantissimo, anziché viaggiare lontanissimo mi piacerebbe riuscire a scoprire un po' meglio quello che c'è vicino. Devo dire che l'iniziativa, il festival che vi citavo prima di Futuro Arcaico, mi ha dato una soddisfazione veramente grande e mi ha stimolato a continuare una ricerca, passatemi il termine, diciamo etnografica, su quelle che sono le tradizioni musicali e anche folcloriche, popolari del Polesine, quindi del mio territorio, quindi scoprire molto di più di quello che è sostanzialmente il mio passato, ecco. Questo mi intriga molto. Proprio a proposito di questo, allora, sia a proposito di viaggi intercontinentali, ma anche di viaggi un pochino più vicini, appunto, no? Per scoprire il territorio, so che è una domanda sempre un po' un tasto dolente in questo periodo, ma avete in mente di portare questo progetto in giro facendo dei live? È una cosa che si può fare, che per il momento è ancora prematura, o volete presentare appunto Banadissa, insomma, il vostro progetto anche in giro? No, assolutamente, per noi è, per me poi è una priorità assoluta, noi non vediamo l'ora di uscire, anche perché è un live a cui stiamo lavorando davvero da tanto tanto tempo, e abbiamo fatto qualche uscita estiva, tra cui anche a Bologna, la risposta del pubblico è stata bellissima, noi ci siamo divertiti, lo show funziona, è uno show molto elettronico con un sacco di percussioni sul palco, secondo noi è davvero una figata, noi ci divertiamo tantissimo a suonarlo, per cui io spero veramente il prima possibile di tornare su un palco sì, e poter esprimere, diciamo, al meglio, ecco, tutto con, diciamo, nella sua forma più compiuta, il progetto. Chiaro che per quella che è la situazione pandemica adesso stiamo anche pensando a dei piani B, quindi a dei set più ridotti in versione acustica, diciamo, che ci consentano in qualche modo comunque di riuscire a portare in giro dal vivo lo spettacolo. Chiaramente sarebbe bellissimo poterlo fare con tutta la strumentazione, col set completo, e speriamo che insomma si possa riaprire un po' la situazione e portare dal vivo questo progetto, perché ci terrei tantissimo. Ce lo auguriamo tutti quanti, ci auguriamo che insomma la musica dal vivo possa tornare nel suo pieno splendore, ecco, diciamo. Ricordiamo che Suerte, il primo album del progetto Banadisa o Banadissa, è uscito l'8 ottobre per La Tempesta Dischi. Nel disco sì. C'è anche la voce femminile spagnoleggiante, perché lei è spagnola, di Clara Andrés, che ha chiesto espressamente di chiudere l'intervista con Montagna Negra. Grazie mille. Allora siete d'accordo su questo punto, perfetto. Grazie mille, Diego, di essere stato con noi, di averci dedicato il tuo tempo e di averci presentato appunto il progetto. Speriamo, incrociamo le dita, a presto per qualche concerto. Speriamo. Speriamo, speriamo. Grazie mille a voi per questo spazio. Grazie mille. Allora, molto molto presto. A presto, un abbraccio.